Non rispondi a nessuno, che proprio il telefono è chiudato. Il telefono, il microfono, che beh, preparando per lavorare stai? Io sono già pronto, fra 5 minuti esco di casa per fare domani mattina. Purtroppo è così, Natalia, siamo fatti per soffrire e basta. Davvero, me cosa arriva? Un pervaico, cosa bisogna fare, cazzo, per guadagnare 3.000 euro al mese? E a te che ti risalti, magari li avessi avuti io, che io si sento a casa la nuova, davvero. Se non devo dire cudine a capo. Per carità, una scena, questo Manuele, gatta, non lo so io, gatta. È così, Natalina, è così. Adesso mi cammino piano piano, hai sceso il gatto al bagno. E io devo andare al ghero, gà. Al ghero, oggi? Mia moglie rientra, parte alle 9 da là, oggi mi tocca rientrare a taglio. Alle 9 basta dai noghi e andare all'aeroporto. Poi a che ora arriva non lo so, ci metteranno un'oretta da Roma qua. Un'ora, c'è 60 minuti sia all'aeroporto di Alghero, da Roma Alghero, 60 minuti. E infatti, quando stanno per partire mi telefona, io parto da qua e vado all'aeroporto a prenderla. E arrivo a mezz'ora sia all'aeroporto che arrivo. E allora? Da vicino. Vabbè, Natali, dai, ti saluto, ci sentiamo casomai domani. Che inizio a incamminarmi. Che cappa. Va bene, buon lavoro, buon tutto. Ciao Manuele. Ciao Natali. CQ10, c'è qualcuno in ascolto? CQ canale 10, c'è qualcuno in frequenza? CQ canale 10, c'è qualcuno qua? Hola. Hola. Attenzione canale 10. CQ canale 10, c'è qualcuno qua? Tutti morti. Attenzione canale 10, tutti morti siete, non mi ascoltate? Acolino Condo, ACC. Ah, che bella cosa. Bueno, ya que usted mismo lo quiera, mamá. Linda, linda, a ver, un tablo, señora. Zitto, mi sei rotto il 3009 pure, cazzo, ci ho sbagliato il microfono, mi sei passato pure il 3009, mi sei passato. E va, mi tocca bagare, lo 440, lo 3009, cazzo, un casino, boh, dimmi tu se si può continuare così. Colino Condor, ACC, io in campagna, sì. Attenzione, Marcolino Condor, ACC. Beh, adesso me ne vado a mangiare e voi ve la prendete in come vi posso amare. Ci sei? Attento Marco, Marco ci sei d'ascolto? Attenzione 10.